Letture di Radio 24. Dal 1927 al 1933, il filosofo e scrittore tedesco Walter Benjamin scrisse oltre 80 testi radiofonici, dai quali emerge il suo desiderio di usare la radio come strumento di educazione e formazione del pubblico. In uno dei suoi saggi, che l'editore Castelvecchi pubblica assieme ad una selezione dei suoi radiodrammi, Benjamin spiega come, secondo lui, la radio dovrebbe cercare di porsi nei confronti dell'ascoltatore. Il più grave errore di questa istituzione è il fatto che si ostina a distinguere per principio tra il conduttore e il pubblico, distinzione che non trova giustificazione neanche nelle sue stesse basi tecniche. Anche un bambino capisce che la radio è fatta per portare davanti a un microfono un numero imprecisato di persone per una qualsiasi occasione, di fare del pubblico un testimone di interviste e discussioni in cui chiunque può intervenire. Mentre queste riflessioni sugli strumenti le troviamo ad esempio in Russia, noi siamo pervasi dal banale concetto di presentazione, che indica una contrapposizione tra conduttore e pubblico. Questa insensatezza ha creato una situazione in cui, dopo anni, il pubblico, sentendosi sacrificato e impreparato, ha finito per sabotare l'apparecchio, spegnendolo. Nessuna autentica istituzione culturale ha mai preteso di prescindere dalla competenza del proprio pubblico, generata grazie ai propri aspetti tecnici e formali. Solo nella nostra epoca, segnata dall'impressionante sviluppo del consumismo tra i fruitori dell'operetta, dei romanzi o del turismo, si è venuta a creare la massa ottusa e informe, il pubblico in senso tecnico, privo di giudizio autonomo e di un linguaggio che sia in grado di esprimere le proprie sensazioni. Questo imbarbarimento è arrivato al suo punto massimo proprio nel modo in cui le masse ascoltano i programmi alla radio. Ora però sembra che la situazione stia per cambiare. Sarebbe sufficiente che chi ascolta si concentri su quello che prova veramente, così da poterlo vivere in maniera autentica e consapevole. Se però, come preferiscono credere i proprietari delle radio, e ancor di più i conduttori, non fosse possibile riconoscere questo tipo di atteggiamento e dipendesse tutto solo o quasi da quello che viene presentato in trasmissione, allora di certo non sarebbe possibile un cambiamento del genere. Tuttavia, per capire che le cose non stanno così, è sufficiente questa elementare riflessione. Non è mai capitato che un lettore abbia richiuso un libro appena aperto in maniera tanto decisa quanto un ascoltatore che spenga la radio dopo qualche minuto dall'inizio della trasmissione. Di certo non è perché magari il tema proposto è di scarso interesse. Questo invece potrebbe spesso indurre l'ascoltatore a lasciare l'apparecchio acceso, prima di decidere come comportarsi. Quello che molte volte rende intollerabile l'ascolto, anche delle trasmissioni più interessanti, sono gli aspetti tecnici e formali. La voce, la pronuncia, il modo di esprimersi. Si tratta esattamente di quegli elementi che, anche se di rado, tengono l'ascoltatore incollato all'apparecchio per seguire argomenti magari lontani dai suoi interessi. La preparazione tecnica dell'ascoltatore potrebbe svilupparsi solo grazie a questi aspetti tecnici e formali e uscire così dall'imbarbarimento. Questo è assolutamente evidente se si pensa che i radioascoltatori sono l'unico tipo di pubblico che ricevono in casa propria, come un ospite, l'oggetto della presentazione, ossia la voce. Già nel momento in cui fa la sua prima apparizione, viene giudicata con la stessa attenzione con cui si giudica un ospite appena entrato. Solo la pigrizia mentale della massa e l'ottusità dei conduttori spiega perché nessuno aiuta la voce a capire che cosa si vuole da essa, di che cosa le saremmo grati e che cosa non sopporteremmo mai. Certo, sarebbe molto difficile determinare come si debba muovere la voce in relazione al linguaggio. Tuttavia, basterebbe che la radio si rendesse conto di quanto sia improbabile tutto quello che le viene presentato ogni giorno, che considerasse quante sono le cose che non vanno, a iniziare da una tipologia ridicola degli oratori, per migliorare non soltanto il livello della programmazione, ma anche e soprattutto per formare un pubblico realmente preparato e competente. E non c'è nulla che sia più importante di questo. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Walter Benjamin, Radio Benjamin, Castelvecchi Editore, 120 pagine, 14 euro. Letture di Radio 24.

Se davvero fossi stato un sadico come i personaggi di cui raccontavo, molti fra i miei detrattori sostenevano questa tesi, mi sarei potuto vendicare inventandomi chissà quale efferatezza contro quei critici. Invece proseguii incurante sulla mia strada. Mi dissi che in fondo il modo peggiore per torturare chi non mi amava era continuare a fare cinema. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Dario Argento, Paura, Einaudi, 354 pagine, 19,50 €. Forse non è vero, come si sente dire a volte, che Dickens ha inventato il Natale, ma certamente con il suo A Christmas Carol e con tutti i racconti natalizi pubblicati negli anni successivi, lo scrittore inglese ha contribuito a definirne la visione moderna. Una festa da celebrarsi in famiglia anziché in comunità e concentrata in un solo giorno anziché per 12 giorni, come voleva la tradizione. Il Natale di Dickens non era però fatto solo di regali, canti e decorazioni, ma anche di amare riflessioni sulle contraddizioni della società vittoriana, come dimostra il racconto scritto per il Natale del 1850, nel quale, l'anno che sta per finire, denuncia in presenza dei suoi rappresentanti, il capo degli scavatori di tombe e il cancelliere delle nascite, le ingiustizie sociali alle quali ha dovuto assistere. Amici miei, insieme abbiamo lavorato molto e voi ora siete in procinto di servire il mio successore. Cercate d'accontentarlo in tutti i modi. Il buon vecchio gentiluomo ha poi aggiunto con aria di rammarico: sono stato un anno di disastri, ho rovinato i contadini, ho sconvolto la terra, ho dato il colpo finale all'agricoltura e mezzo rovinato il paese. È vero pure che sono stato un anno di buoni affari per il commercio e un anno di ottimi rendimenti per i nostri fondi di investimento inglesi, ma voi perdonerete le contraddizioni di un uomo debole e vecchio. Dopo un breve silenzio colmo di soddisfazione, riprese a parlare. Sono stato costretto a essere il testimone del sacrificio di molte amate creature, sui battelli a vapore, per la mancanza delle più comuni e semplici precauzioni nei confronti di simili omicidi legali. Io, proseguì, assordato come sono stato da uno strepito di grida e di furore, solo per aver preteso un'educazione laica. Ho visto forse diffondersi negli anni a venire qualche nuova forma d'educazione per coloro che ne hanno più bisogno? Sui suoi occhi scese come un velo e s'abbandonò di nuovo sul cuscino. Dopo poco, volgendo lo sguardo appannato verso il capo cancelliere delle nascite, gli chiese: «Nel luogo della terra chiamato Inghilterra, fra coloro che Madre Natura ha posto sotto la vostra competenza, dopo tutti questi anni, secondo voi, quanti sono in grado oggi di leggere o scrivere?» Il cancelliere rispose: «Beh, meno della metà». «E nella cronaca del mio mese di maggio», chiese allora l'anno vecchio con un profondo sospiro, «trovo scritto: in Bow Street due bambini piccoli alti appena una spanna sono stati accusati d'esser venuti meno al settimo comandamento, per aver rubato una pagnotta di pane nella bottega di un fornaio. Si sono difesi dicendo che stavano morendo di fame e il loro aspetto dimostrava che avevano detto la verità. Sono stati condannati alla fustigazione presso la casa di correzione, frustati. Povero me, povero me! Lo Stato non è in grado di escogitare nulla di meglio per i suoi figli. Dovrebbero condannarli a studiare. Durante quello stesso mese, proseguì, è nato un principe di sangue. Supponiamo che l'avessero rapito alla Casa Reale, che il cielo la benedica, e l'avessero abbandonato per strada come quegli sfortunati bambini, anche lui destinato all'ignoranza. Avrebbe avuto una sorte diversa rispetto ai piccoli condannati alla fustigazione? Rifletteteci un po', o grande regina, e cercate di diventare la reale madre di tutti loro. Il capo cancelliere delle nascite e il capo degli scavatori di tombe erano entrambi espertissimi quanto all'infanzia predestinata al vizio e alla vergogna, e non certo perché divinassero in modo blasfemo per conoscenza divina, ma solo per esperienza umana, per cui si sentirono sopraffatti dalla preoccupazione del loro amico che se ne stava per andare. «Lascio al mio successore», aggiunse allora il vecchio sollevando di nuovo le palpebre, «l'enorme patrimonio inglese di decadenza e abbandono. Analogamente, gli lascio in eredità», aggiunse poi il vecchio, riprendendosi con un grande sforzo, la corte di giustizia del Lord Cancelliere. A sua volta, meno ne lascerà al suo successore e meglio sarà per l'intera umanità. Il capo cancelliere delle nascite scriveva più rapidamente possibile. L'orologio segnava appena 5 minuti alla mezzanotte. «E poi gli lascio in eredità», disse il testatore, «anche le costose complicazioni della legge inglese, con la stessa raccomandazione che ho fatto prima. E gli lascio anche», aggiunse ancora il testatore, «la tassa sulle finestre, senza dimenticare la pessima gestione in generale delle finanze pubbliche, come anche delle entrate e del patrimonio pubblico, sia in Gran Bretagna che in tutti i possedimenti». Dopo aver pronunciato queste parole, l'anno vecchio si voltò tranquillamente su un fianco e spirò in pace, al che, con 12 potenti rintocchi, uno a uno battuti insieme e martellati da un centinaio di torri, fu annunciato l'arrivo del nuovo anno, che sopraggiunse in modo gioioso. Mentre il capo degli scavatori di fosse si occupò del predecessore, per mera forza d'abitudine il capo cancelliere registrò la nascita sul registro, aggiungendo queste parole in lettere dorate: «Possa essere un anno saggio e felice per tutti noi». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del racconto di Charles Dickens «Le ultime parole dell'anno vecchio». Mattioli, 1885 editore, 108 pagine, 9,90 €. La tristezza è considerata un'emozione negativa. Eppure le canzoni tristi sono tra quelle che piacciono di più. Per quale motivo? Non si tratta di una forma di masochismo, spiega uno studio pubblicato su PLOS ONE da ricercatori dell'Università Libera di Berlino. Al contrario, la musica triste semplicemente ci fa sentire meglio. Gli psicologi Stefan Kölsch e Lila Taruffi hanno coinvolto 772 persone in un sondaggio online composto da 76 domande sulle modalità di ascolto della musica e le emozioni suscitate, trovando che le canzoni tristi, oltre a evocare emozioni parzialmente positive, come la nostalgia, la tranquillità e la tenerezza, compenserebbero il senso di tristezza offrendo diversi benefici. Il primo è la catarsi, che si sperimenta ascoltando storie drammatiche che si sanno del tutto immaginarie. Il secondo è la regolazione delle emozioni. Secondo Lila Taruffi, le canzoni dai toni dolenti aiutano infatti a esprimere le proprie emozioni, che è il primo passo per attenuarle. Un terzo beneficio è legato all'empatia. L'ascoltatore trarrebbe un senso di sollievo dal condividere con altri il senso di tristezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuliano Aluffi «Perché ci piacciono le canzoni tristi» dal venerdì di Repubblica del 12 dicembre.